Gli scandali nella Chiesa. La revoca della scomunica a quattro vescovi della Fraternità San Pio X nel gennaio 2009 rappresenta una prima rottura. Torneremo a parlare ancora approfonditamente anche degli strani retroscena di quell'episodio. D'improvviso, colui che sino ad allora era stato tanto elogiato, del quale si diceva che avesse scatenato una vera e propria febbre da Benedetto, tutto d'un tratto diventa il Papa senza fortuna, uno che si era messo contro mezzo mondo. I commenti sono catastrofici. Di fronte ad una campagna mediatica contro il Papa senza paragone, il quotidiano Neuzürcher Zeitung è spinto a parlare di insipienza aggressiva dei giornalisti. Il filosofo ebreo-francese Bernard-Henri Lévy annota come ogni qualvolta il discorso cada su Benedetto XVI, la discussione è dominata da pregiudizi, da insincerità fino alla più completa disinformazione. La revoca della scomunica è stata un errore? Forse è il caso di fare qualche precisazione rispetto alla revoca della scomunica in sé, perché sono state diffuse moltissime stupidaggini, perfino da presunti dotti teologi. Non è vero che quei quattro vescovi, come spesso si è voluto sottendere, siano stati scomunicati a causa del loro atteggiamento negativo nei confronti del Concilio Vaticano II. In realtà erano stati scomunicati perché avevano ricevuto la consacrazione episcopale senza il mandato del Papa e quindi si era proceduto secondo il relativo canone vigente, un canone già presente nell'antico diritto ecclesiastico. Secondo esso, la scomunica viene inflitta a coloro che, senza mandato del Papa, conferiscono ad altri la consacrazione episcopale ed anche a coloro che si lasciano consacrare. Furono quindi scomunicati perché avevano agito contro il primato. Esiste una situazione analoga in Cina. Anche lì sono stati consacrati dei vescovi senza il mandato del Papa e per questo sono stati scomunicati. Ora, non appena uno di questi vescovi dichiara di riconoscere il primato in generale, nonché quello del pontefice regnante in particolare, la sua scomunica viene revocata perché non è più giustificata. Questo è quello che stiamo facendo in Cina e speriamo in questo modo di riuscire piano piano a risolvere lo scisma. E così abbiamo agito anche nei casi in questione. In breve, per il fatto stesso di essere stati consacrati senza il mandato del Papa, sono stati scomunicati. E per il fatto stesso di aver riconosciuto il Papa, anche se non lo seguono ancora in tutto, la loro scomunica è stata revocata. In sé è un processo giuridico assolutamente normale. Devo dire a questo proposito che su questo punto il nostro lavoro di comunicazione non è riuscito bene. Non è stato spiegato abbastanza perché quei vescovi fossero stati scomunicati e perché poi, già solo per ragioni giuridiche, quella scomunica dovesse essere revocata. Nell'opinione pubblica nacque l'impressione che Roma trattasse con riguardo gruppi conservatori di destra, mentre riducesse subito al silenzio esponenti liberali e di sinistra. Si è trattato semplicemente di una situazione giuridica molto chiara. Il Vaticano II non c'entrava assolutamente nulla e nemmeno altre posizioni teologiche. Nel momento stesso in cui questi vescovi riconoscevano il primato del Papa, giuridicamente dovevano essere liberati dalla scomunica, senza che per questo mantenessero i loro incarichi nella Chiesa e senza che per ciò stesso fosse accettata la posizione da loro assunta nei riguardi del Concilio Vaticano II.